ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Lunedì 27 dicembre 1943. Cara Kitty, venerdì sera per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un regalo di Natale. Le figlie di Kleiman e di Kugler avevano di nuovo preparato una splendida sorpresa. Miep ha fatto una bellissima torta su cui ha scritto Pace 1944. Beb ha procurato mezzo chilo di biscotti di qualità prebellica. Per Peter, Margot e per me c'era un barattolino di yogurt e per gli adulti una birra a testa. Tutto era impacchettato benissimo, come di consueto, e sui pacchetti c'erano scritti i nomi. Per il resto, i giorni di Natale sono passati in fretta. Anne. Mercoledì 29 dicembre 1943. Ieri sera ero di nuovo molto triste. Pensavo alla nonna e a Anneli. La nonna, cara nonna, che poco abbiamo capito quanto soffriva, com'era buona con noi e quanto si interessava di tutto quello che riguardava noi, e intanto si portava sempre dietro il terribile segreto. Com'era sempre fedele e buona la nonna, non avrebbe mai piantato in asso nessuno di noi. Qualunque cosa facessi, anche se ero maleducata, lei mi perdonava sempre. Nonna, mi volevi bene o non mi capivi neanche tu? Non lo so. Come deve essersi sentita sola la nonna, sola nonostante ci fossimo noi. Una persona può essere sola anche se molti le vogliono bene, perché non è la persona amata di nessuno. E Anneli? È ancora viva? Che cosa fa? Oddio, proteggila e falla tornare tra noi. Anneli, pensando a te vedo il destino che avrebbe potuto essere anche il mio. Mi vedo al posto tuo. Come faccio allora a essere ancora triste per quello che accade qui? Non dovrei forse essere sempre contenta, soddisfatta e felice, tranne quando penso a lei e ai suoi compagni di sventura? Sono egocentrica e vile. Perché penso e sogno sempre le cose peggiori e mi viene da gridare per la paura? Perché malgrado tutto non credo ancora abbastanza in Dio. Lui mi ha fatto tanti doni che sicuramente non meritavo e lo stesso ogni due giorni continuo a sbagliare così spesso. Si può piangere quando si pensa agli altri. In verità si potrebbe piangere tutto il giorno. Bisogna solo pregare Dio che faccia un miracolo e risparmi ancora alcuni di loro. Spero di farlo abbastanza intensamente. Anne. Giovedì 6 gennaio 1944. Cara Kitty, oggi voglio farti due confessioni per cui ci vorrà un bel po' di tempo, ma devo assolutamente parlarne con qualcuno e allora tanto vale farlo con te, dato che sono sicura che sempre, in tutte le circostanze, tu saprai tacere. La prima riguarda la mamma. Sai che mi sono spesso lamentata di lei. Poi però ho sempre fatto lo sforzo di tornare a essere gentile. D'un tratto ho capito qual è il problema. La mamma stessa ci ha detto che lei, più che figlie, ci considera amiche. Naturalmente è molto bello, però un'amica non può occupare il posto di una madre. Io ho bisogno che la mamma mi dia l'esempio, di provare rispetto per lei, e mia madre, in quasi tutte le cose, mi dà effettivamente l'esempio, ma di come non mi devo comportare. Ho l'impressione che Margot in tutte queste cose la pensi in modo così diverso che quello che ti ho raccontato ora non lo capirebbe mai. E papà evita tutti i discorsi che riguardano la mamma. La seconda cosa è una cosa che mi costa molta pena raccontarti perché riguarda me stessa. Non sono riservata, Kitty, però quando qui parlano così spesso di quello che fanno nel bagno ho l'impressione che tutto il mio corpo si ribelli. Ieri leggevo un articolo di Sis Eister che tratta dell'arrossire. L'articolo sembra scritto proprio per me. Anche se non arrossisco tanto facilmente, le altre cose che ci sono scritte mi si adattano bene. Scrive più o meno che negli anni della pubertà le ragazze diventano silenziose e si chiudono in sé pensando alle meraviglie che accadono nel loro corpo. È una cosa che è capitata anche a me e per questo negli ultimi tempi ho l'impressione di dovermi vergognare davanti a Margot, mamma e papà. Margot è molto più timida di me, però non sembra affatto imbarazzata. Quello che mi sta accadendo lo trovo così meraviglioso. E non solo l'aspetto esterno del mio corpo che si vede, ma anche i cambiamenti interni. Proprio perché non parlo mai di me e di queste cose con nessuno, ne parlo tra me. Ogni volta che sono indisposta, ed è accaduto appena 3 volte, nonostante il dolore, il fastidio e la sporcizia, ho la sensazione di portarmi dentro un dolce segreto. Per questo, anche se non mi procura che noie, ogni volta aspetto con gioia il momento in cui tornerò ad avvertire dentro di me il dolce segreto. Poi Sister Eister scrive anche che le ragazze giovani in questi anni non si sentono sicure e scoprono di essere persone adulte con idee, pensieri e abitudini. Io, visto che sono arrivata qui a 13 anni compiuti da poco, ho cominciato prima a pensare a me e ho capito di essere una persona. A volte di sera a letto avverto il desiderio irrefrenabile di toccarmi il seno e sentire il cuore che batte tranquillo e sicuro. Senza saperlo, avevo avuto sensazioni simili prima di venire qui, perché ricordo una sera che ero rimasta a dormire da Jacques, che non ero riuscita a trattenermi dalla curiosità di vedere il suo corpo che lei mi aveva sempre tenuto nascosto e che non ho mai visto. Le avevo chiesto se, come prova della nostra amicizia, non potessimo toccarci il seno a vicenda. Jacques si era rifiutata e poi mi era venuto il terribile desiderio di baciarla e l'avevo baciata. Ogni volta che vedo un corpo femminile nudo, come per esempio la Venere nella storia dell'arte di Springer, vado in estasi. Talvolta lo trovo così meravigliosamente bello che devo trattenermi per non piangere. Se solo avessi un'amica. Giovedì 6 gennaio 1944. Cara Kitty, avevo un tale desiderio di parlare con qualcuno che, per chissà quale motivo, mi sono messa in testa di scegliere Peter. Ogni volta che salivo nella sua stanzetta, con la luce, mi sentivo sempre a mio agio, ma siccome Peter è così modesto e non manda mai via uno che gli dà fastidio, non avevo mai osato fermarmi più a lungo perché temevo che mi trovasse noiosa. Una volta volevo restare a chiacchierare con lui, stavo cercando un pretesto. L'occasione si è presentata ieri. Peter ultimamente ha la mania dei cruciverba e non fa altro per tutto il giorno. Io gli davo una mano e ben presto ci siamo trovati seduti ai 2 lati del suo tavolino, lui sulla sedia e io sul divano. Ho avuto una strana sensazione guardandolo negli occhi azzurri scuri e vedendo quanto era a disagio per la visita insolita. Da tutto si capiva come si sentiva. Sulla faccia gli vedevo l'imbarazzo e l'insicurezza di non sapere come comportarsi e al contempo un'ombra di consapevolezza della propria maschilità. Il suo atteggiamento imbarazzato mi ha fatto intenerire. Avrei voluto dirgli: «Parlami un po' di te. Guarda al di là di queste chiacchiere inutili». Però queste sono domande più facili da preparare che da fare. La sera è passata e non è successo niente, tranne che gli ho parlato di quell'articolo sul fatto dell'arrossire. Naturalmente non quello che avevo scritto a te, ma gli ho detto che col passare degli anni si sentirà certamente più sicuro. Di sera a letto mi è venuto da piangere. Ho pianto, ma in un modo che non mi sentisse nessuno. Trovavo semplicemente ripugnante l'idea di dover implorare Peter. cosa non si fa per esaudire i propri desideri? Come vedi, ero disposta ad andare più spesso da Peter per riuscire a parlargli in un modo o nell'altro. Però non devi pensare che io sia innamorata di Peter, neanche a parlarne. Se i Van Dan avessero una figlia, anziché un figlio, avrei provato a fare amicizia anche con lei. Questa mattina, verso le 7:05, appena sveglia, mi sono ricordata di quello che avevo sognato. Sedevo su una sedia e davanti a me c'era Peter, ma Peter Schiff. Sfogliavamo un libro con disegni di Mary Boss. Era un sogno così preciso che in parte mi ricordo ancora le figure. Ma non è finito, il sogno continuava. D'un tratto gli occhi di Peter hanno incontrato i miei e sono rimasta a lungo a guardare i suoi begli occhi castano vellutati. Lui mi ha detto piano: «Se l'avessi saputo, sarei venuto da te molto prima». Mi sono voltata di scatto perché ero troppo commossa. Poi ho avvertito il contatto di una guancia tenera, così fresca, contro la mia. E tutto era così dolce, così dolce. Arrivata a questo punto mi sono svegliata, che sentivo ancora la sua guancia contro la mia e avvertivo i suoi occhi castani che mi guardavano in fondo al cuore, talmente in fondo che aveva letto quanto lo avessi amato e quanto lo amassi ancora. Le lacrime hanno ripreso a sgorgarmi dagli occhi e mi sono sentita molto triste per averlo di nuovo perso, ma al contempo ero anche contenta, perché sapevo con certezza che Peter è tuttora il mio eletto. È strano che io sogni così spesso immagini tanto chiare. Prima una notte ho sognato Omi, la vedevo così nitidamente che riuscivo a distinguere la sua pelle di soffice velluto a coste larghe. Poi ho visto Oma come un angelo custode, poi Anneli, che tuttora considero il simbolo della miseria di tutti i miei amici e degli ebrei. Quando prego per lei, quindi, prego per tutti gli ebrei e la povera gente. E adesso Peter, il mio amato Peter, non l'avevo mai visto così nitido, con gli occhi della mente. Non ho una sua foto, ma l'ho visto così bene, così perfetto. Tua Anne. Venerdì 28 gennaio 1944. Cara Kitty, stamattina mi chiedevo se non ti senti come una mucca che deve continuare a ruminare le stesse notizie e alla fine sbadiglia per la monotonia del cibo e tra sé spera che Anne tiri fuori qualcosa di nuovo. Ahimè, so che la roba vecchia ti annoia, ma prova a pensare quanto sono stufa io di queste cose che mi si presentano davanti sempre uguali. A tavola, se non si parla di politica o di un ottimo pasto, mamma o la signora tornano fuori con le loro storie d'infanzia, già arcinote a tutti. Oppure Dussel blatera dell'enorme collezione di vestiti di sua moglie, di bei cavalli da corsa, di barche veloci, di bambini che a 4 anni sanno già nuotare, di dolori muscolari e pazienti paurosi. È sempre la stessa solfa. Se uno degli 8 apre bocca, gli altri 7 sanno completare la storia che ha cominciato. Conosciamo già fin dal principio tutte le battute di spirito e il narratore finisce per ridere da solo delle proprie spiritosaggini. I lattai, gli ortolani e i macellai di queste ex donne di casa li immaginiamo già con la barba, tante volte sono stati decantati o denigrati durante i pasti. Se qualcosa viene discusso nell'alloggio segreto, è impossibile che sia fresco e nuovo. I nascosti e i clandestini sono diventati una cosa normale, proprio come un tempo le pantofole di papà dovevano sempre stare davanti alla stufa. Istituzioni come Paesi Bassi Liberi, che procurano documenti falsi, prestano denaro ai clandestini, trovano nascondigli e danno da lavorare ai ragazzi cristiani nascosti, ce ne sono moltissime. Ed è incredibile come questa gente rischi altruisticamente la propria vita per aiutare e salvare gli altri. Il migliore esempio sono senz'altro i nostri benefattori, che fin qua ci hanno permesso di tirare avanti e speriamo che ci facciano arrivare alla fine sani e salvi, altrimenti dovranno condividere la sorte di quelli che sono ricercati. Non abbiamo mai sentito una sola parola che si riferisse al peso che certamente noi siamo per loro. Mai, nessuno si lamenta per il lavoro che gli diamo. Ogni giorno tutti salgono da noi, parlano di affari e di politica con gli uomini, di mangiare e delle difficoltà legate alla guerra con le signore, e di libri e riviste coi bambini. Cercano di essere il più allegri possibile, portano fiori e regali per i compleanni e le feste, e sono sempre e comunque disponibili. E questo, che non dobbiamo mai dimenticare, che anche se altri dimostrano un coraggio da eroi in guerra o davanti ai tedeschi, i nostri protettori danno prova del loro coraggio nella sollecitudine e nell'affetto che ci manifestano. Si sentono le cose più strane, che però di solito sono anche realmente accadute. Per esempio, questa settimana Kleiman ci ha comunicato che in Geldria c'è stata una partita di calcio tra due squadre. Una era composta esclusivamente da clandestini e l'altra da 11 uomini della gendarmeria. A Hilversum vengono distribuite nuove tessere perché anche i numerosi clandestini ricevano la loro parte. Le carte annonarie si ricevono solo presentando la tessera o pagando le 60 fiorini. Gli addetti alla distribuzione hanno convocato tutti i clandestini della zona per una certa ora. Potranno ritirare le tessere a un tavolino separato. Bisogna stare attenti che i crucchi non si accorgano di questi scherzetti. Tua Anne. Giovedì 3 febbraio 1944. Cara Kitty, l'attesa dell'invasione si fa di giorno in giorno più forte in tutto il paese. Se tu fossi qui, da un lato certamente saresti impressionata come me da tutti quei preparativi, ma dall'altro ci rideresti dietro perché ci diamo tanto da fare e chissà, forse inutilmente. Su tutti i giornali si parla dell'invasione e la gente impazzisce leggendo: se gli inglesi dovessero sbarcare nei Paesi Bassi, le autorità tedesche prenderanno tutti i provvedimenti necessari per difendere il paese, compresa l'eventualità di inondarlo. E vengono pubblicate cartine su cui sono evidenziate le zone del paese che potrebbero finire sott'acqua. Visto che sono comprese molte parti di Amsterdam, la prima domanda è stata: che cosa fare se le strade dovessero essere coperte da un metro d'acqua? Per risolvere il grave problema, qui tutti propongono le soluzioni più disparate. Visto che sarà impossibile camminare e andare in bicicletta, bisognerà guadare le acque. No, si dovrà provare a nuotare. Ci mettiamo tutti la cuffia e il costume e nuotiamo sott'acqua più a lungo possibile, in modo che nessuno veda che siamo ebrei. Ma che stupidaggini! Mi pare di veder nuotare le signore quando i ratti morderanno loro le caviglie. Questo ovviamente lo diceva un uomo. Vedremo chi griderà più forte. Non potremo più uscire di casa. Il magazzino è talmente instabile che se ci fosse un'inondazione simile crollerebbe subito. Sentite un po', ragazzi. Bando agli scherzi. Dobbiamo cercare di procurarci una barchetta. Ma cosa serve? Ho un'idea molto migliore. Ognuno si prenda una cassa di lattosio dalla soffitta e rema con un mestolo. Io camminerò sui trampoli. Da giovane lo facevo benissimo. Yanghis non ne avrà bisogno e certamente si caricherà la moglie sulle spalle. Poi Miep avrà i trampoli. Hai capito più o meno, Kit? Tutte queste stupidaggini sono anche divertenti, ma la verità sarà ben diversa. Ovviamente i tedeschi potrebbero anche evacuare Amsterdam. Che cosa si farebbe? Andremo con gli altri, cercando di camuffarci il meglio possibile. Non si esce in nessun caso. L'unica è restare qui. I tedeschi sarebbero in grado di spingere la popolazione sempre più lontana fino a farla morire in Germania. Ovviamente si resta qui. È il posto più sicuro. Questi discorsi li sento tutto il giorno. Sbarco qui, sbarco là, dispute sulla fame, la morte, le bombe, estintori, sacchi a pelo, documenti di ebrei, gas velenosi, eccetera, eccetera. Niente di divertente. Un ottimo esempio delle prospettive senza speranze dei nostri uomini è la seguente conversazione con Ian. Alloggio. Abbiamo paura che i tedeschi, ritirandosi, si portino dietro tutta la popolazione. Ian: non è possibile, non hanno treni a disposizione. Alloggio: treni? Pensa che metterebbero la gente seduta comodamente nei vagoni? Escluso. A caval di San Francesco. Dussel dice sempre: per pedes apostulorum. Ian: non ci credo affatto. Voi vedete sempre troppo nero. Che interesse avrebbero a portarsi dietro tutti i civili? Alloggio: ma non lo sa che cosa ha detto Goebbels? Se dovremo ritirarci, sbatteremo le porte di tutti i paesi occupati. Ian: hanno detto tante cose. Alloggio: ritiene che i tedeschi siano troppo nobili o amanti dell'umanità per compiere un simile gesto? Quelli pensano: se dobbiamo affondare noi, affonderanno anche tutti quelli che sono in nostro potere. Ian: potete dirmi quello che volete, ma non ci credo. Alloggio: è sempre la solita solfa. Nessuno vuole ammettere la presenza del pericolo prima di averlo toccato con mano. Ian: certo che non siete mai ottimisti, tanto sono semplici supposizioni. Alloggio: ma se abbiamo vissuto tutto prima in Germania e ora qui, e che cosa succede in Russia? Ian: dimenticate per un momento gli ebrei. Penso che nessuno sappia che cosa stia accadendo in Russia. Gli inglesi e i russi esagereranno proprio come i tedeschi, per motivi propagandistici. Alloggio: non se ne parla neanche. La radio inglese ha sempre detto la verità. Ammettiamo anche che ci sia un 10% di esagerazione. La realtà resta comunque grave, perché lei non può negare che in Polonia e in Russia sono state assassinate o gassate milioni di persone pacifiche. Ti risparmio il resto dei discorsi. Sono molto tranquilla e non mi importa niente di tutta questa agitazione. Sono giunta a un punto in cui non fa molta differenza se muoio o sopravvivo. Il mondo continuerà a girare anche senza di me e comunque non posso farci niente. Sarà quel che sarà. Io non faccio altro che studiare e sperare in un lieto fine. Tua Anne. Daria De Florian ha letto Il diario di Anna Frank, edizione definitiva a cura di Miriam Pressler, traduzione di Laura Pignatti, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.